La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata della Quota Rosa. Oggi ci occupiamo del premio Grinzane Cavour per la cultura euromediterranea. Si è svolto martedì 14 ottobre, in questa occasione si è svolto anche un incontro Mediterraneo Pianeta Donna, alla quale hanno partecipato l'israeliana Angelica Calò-Livneh, l'inviata Giuliana Sgrena e l'ambasciatrice di pace Principessa India di Afghanistan. Tutte sono con noi. Iniziamo da Angelica Calò-Livneh, perché l'avevamo sentita la scorsa settimana e vogliamo sapere com'è andato questo premio, com'è andato questo spettacolo. Buongiorno, prima di tutto, è andata in una maniera semplicemente straordinaria, è stato un evento veramente di grandissima qualità. Per 3 ore e mezzo sono state sedute lì in questo magnifico teatro rendano più di 900 persone. La serata si è aperta con il nostro spettacolo, con questi ragazzi di cui ti avevo parlato, che sono ragazzi che sono in un anno di servizio per la comunità, i ragazzi ebrei ed arabi di 18 anni, i ragazzi ebrei prima di arruolarsi all'esercito, i ragazzi arabi prima di andare all'università. Hanno fatto uno spettacolo, hanno dato una performance che, ti dico solo questo, c'era un tale silenzio nel pubblico che alla fine la gente neanche batteva le mani perché erano completamente emozionati. Infatti mi sono messa paura, ho detto, oh, questi non hanno capito nulla. Invece erano tutti emozionatissimi, alla fine c'è stato uno scroscio di applausi quando i ragazzi sono scesi giù, tutti vestiti con i loro costumi, dopo appena si erano tolti le maschere hanno distribuito il pane della pace. Guarda, è stata una cosa straordinaria. Ricordiamo che tu sei nata a Roma nel 1955, vivi in Israele da 20 anni, in un kibbutz al confine col Libano, sei un'educatrice di pace, cioè cerchi di mettere insieme giovani di diverse religioni, giusto? Esatto, sono già 8 anni da quando scoppiò l'intifada, che ho pensato l'unico modo che poi per evitare, per cercare di creare una cura preventiva e mettere insieme questi ragazzi dalla giovane età. Infatti ho un gruppo, una compagnia di una trentina di ragazzi, già ne sono passati più di 120 da allora, da quando abbiamo iniziato. Ora sono una trentina di ragazzi dei 13 ai 18 anni, un altro gruppo di ragazzi, 12 ragazzi, questi che abbiamo portato adesso in Italia, di 18 anni. E questi ragazzi hanno già coinvolto le loro famiglie, tutte persone arabi ed ebrei, circassi, drusi, religiosi, laici di kibbutz e di moshav che abitano nella Galilea. E ti dico solo questo, che il giorno dopo il sindaco è venuto a trovarti, il sindaco di Cosenza, e i ragazzi erano lì insieme ai ragazzi del convitto dove eravamo ospiti, al convitto nazionale Bernardino Telesio. C'è stata una gioia, un'allegria, perché questi ragazzi che hanno visto lo spettacolo hanno detto, ma come, noi che siamo qui, che abbiamo tutto, non ci rendiamo conto di tutto ciò che abbiamo, voi che venite da un posto dove la guerra c'è sempre stata, ci avete insegnato oggi il valore della vita. Sono stati veramente dei momenti straordinari. Insomma, è successo quello che speravo che succedesse. Che speravi che succedesse. Insomma, noi ricordiamo che c'è anche un libro carino che consigliamo per chi vuole avvicinarsi alla pace in Medio Oriente attraverso la letteratura, che si intitola Gaza Blues, di Keret e di un altro scrittore palestinese, proprio che si sono messi insieme, un ebreo e un palestinese, per far vedere come si può scrivere anche un libro insieme. E tu hai messo su invece uno spettacolo teatrale che fa vedere come si può stare tutti insieme sullo stesso palcoscenico. E poi, che poi sono stati presentati, oltre ai libri che c'hanno lì, anche 2 dei miei libri, uno Giù le maschere, che racconta proprio come è nato tutto questa visione di pace, e un altro, non so se ti ricordi, che durante la guerra del Libano Israele ogni giorno su Repubblica pubblicavano un box, c'era un box, il diario della Galilea e un diario da Beirut, ero io che lo scrivevo, e adesso a Torino, alla Fiera di Torino, abbiamo presentato la raccolta di tutti questi diari che avevo scritto, che si chiama Diario della Galilea, solo in pace vincono tutti, e è edito dalla Proedi. Allora, questo quindi abbiamo vari input per sperare nella pace, la letteratura, il giornalismo. Andiamo un attimo a parlare con Giuliana Sgrena, lo sappiamo, una giornalista che scrive per il Manifesto del 1988, rapita, poi liberata in Iraq. Allora, Giuliana Sgrena, questo premio Grinzane Cavour... Ma veramente io sono stata chiamata qualche mese fa a fare parte della giuria di questo premio che si chiama Carica al Grinzane Cavour, perché è una versione calabrese del Grinzane Cavour. E nelle discussioni che abbiamo fatto prima del premio abbiamo centrato molto la nostra attenzione sulle donne, perché molti di noi ritenevano che la spinta maggiore alla pace, l'approccio diverso ai conflitti viene proprio dalle donne, e anche nei libri che abbiamo dovuto scegliere, leggere per premiare poi chi ha vinto, c'erano veramente tra i libri scritti dalle donne una forte voglia di lottare, di combattere, di esprimere i loro sentimenti, le storie, eccetera. Per questo siamo arrivati alla conclusione che non bastava premiare alcune donne, tra i vari premiati non erano ovviamente solo donne, ma bisognava accompagnare questa premiazione anche con un dibattito sul ruolo delle donne nel Mediterraneo. Mediterraneo visto in senso ampio, tant'è vero che arriva fino all'Afghanistan questo nostro Mediterraneo, ma che fa parte di una cultura che ci accomuna tutti in qualche modo, e quindi è stata anche l'occasione appunto per far parlare delle donne che non erano tra i premiati di questa edizione del premio, ma che davano il senso a questo premio in qualche modo. Quindi Marina Nemat per Prigioniera di Teheran e Elvira Donés per Vergine Giurata. Sì. Allora, io farei ascoltare Marina Nemat, che noi abbiamo intervistato un po' di tempo fa, proprio su Prigioniera di Teheran. Well, after the revolution... Purtroppo, dice, dopo la rivoluzione, tutti i nostri ottimi, bravissimi e preparatissimi insegnanti di scuola sono stati sostituiti forzatamente da altri insegnanti giovanissimi, non preparati, diciottenni, ventenni, che altro non erano che i guardiani della rivoluzione, che ci davano propaganda, ci propinavano propaganda. E dice, questo è stato proprio, come lei ha detto, l'inizio della rivoluzione culturale, solo che noi non la vedevamo, perché quando la vivi la rivoluzione non te la spieghi. Quindi sì, è vero quello che lei ha detto durante una lezione di calcolo, di matematica. Io ho alzato la mano e ho chiesto a questo insegnante, per piacere, di fare il suo dovere, di insegnare calcolo dunque e non propaganda, e questa insegnante mi ha detto, se non ti sta bene quello che sto facendo, esci, vattene. E io mi sono alzata e sono uscita dalla classe. Il punto è stato che la classe mi ha seguito, ed è così che è cominciata questo sciopero bianco di 3 giorni. E quando si è giovani, quando si è adolescenti, ci crediamo invincibili, onnipotenti, non pensiamo mai che qualcosa di male o di cattivo ci possa colpire o ci possa accadere. Ora, questa rivoluzione in realtà mi aveva fatto arrabbiare moltissimo, e quindi in conseguenza di questo io ho cominciato a leggere libri contro il governo, a scrivere articoli contro il governo, a dimostrare contro il governo. Insomma, una testimonianza molto importante quella di Marina Nemat, principessa India d'Afghanistan. Lei è ambasciatrice di pace. Quando sente parlare di paesi che le stanno vicino, sia l'Afghanistan sia l'Iraq, è possibile oggi una speranza di pace? Sì, la speranza certo c'è sempre, ma le difficoltà sono altrettante e tante, specialmente in Afghanistan. Dell'Iraq io non so parlare, io mi interesso dell'Afghanistan, che conosco meglio. Certamente ci sono tutti i paesi limitrofi all'Afghanistan che sono contro alla stabilizzazione di questo paese, e così fomentano guerriglie, producono i talibani, mandano questi a fare scorribande e crimini, come hanno fatto per 5 anni durante il regime talibano. Quando purtroppo le donne non avevano la possibilità nemmeno di camminare per strada senza il burqa. La quota rosa. Principessa, lei da quant'è a Roma? Da quando quasi sono nata, sono arrivata qui a 40 giorni e ho vissuto quasi sempre in Italia e ho finito gli studi qui a Roma. Lei si sente quasi più italiana che afghana? No, più no. Lei, durante la guerra tra URSS, tra l'Unione Sovietica e l'Afghanistan, ha ospitato nella sua casa di Roma i bambini mutilati. Questo suo impegno, lei è riconosciuta come un'ambasciatrice di pace e poi è continuato anche con questa guerra. Che cosa le ha dato vedere poi tanti bambini soffrire così tanto? Ha dato a me e ha dato a tutti coloro che li hanno conosciuti. Io mi occupo dell'Afghanistan da sempre. Prima, nei momenti dell'Afghanistan Felix, per modo di dire Felix, perché l'Afghanistan è sempre stato un paese povero, però dove nessuno moriva di fame fino al 1978. E fin prima mandavo piuttosto vestiti, giocattoli per i bambini o per le persone grandi anche. Poi dopo, quando c'è stata l'invasione sovietica, invece mi sono impegnata più seriamente, diciamo, e parlando alle donne afghane sia durante l'invasione sovietica, che ha durato 10 anni, ha fatto 2 milioni di morti, 4 milioni di feriti, 5 milioni di rifugiati. 5 milioni vuol dire una città intera, come Roma. E da allora mi sono impegnata proprio con molta più serietà. E in quel periodo dell'invasione sovietica abbiamo avuto qui, grazie al Ministero degli Affari Esteri italiano, una somma, una sostanziale somma, per far curare ma giovani sotto i 18 anni, affinché non si facesse un aiuto ai partigiani afghani, però non, solo alle vittime, solo alle vittime. Alle vittime, no, le vittime che dovevano avere meno di 18 anni, perché non si doveva aiutare o curare quelli che potevano essere partigiani o essere stati partigiani, senza sapere che i bambini afghani, i ragazzi afghani anche a 14 anni andavano in guerra, ma purtroppo. Ma e abbiamo, in questi 10 anni purtroppo nessuno ha saputo di questa generosa offerta da parte del governo italiano, perché non dovevamo dirlo a nessuno, a parte certo quelli che li vedevano negli ospedali, vedevano questi bambini che erano feriti, e i feriti afghani non sono feriti, diciamo, i feriti sono sempre feriti, però avevano delle cose spaventose, senza braccia, senza gambe, senza occhi e mani, insomma. E allora, quando questi piccoli e giovani uscivano dall'ospedale, se non sapevano dove andare perché non avevano un genitore o uno zio, allora li ospitavo a casa mia. Questo ha durato 14 anni, poi dopo i fondi sono finiti, i feriti no, ma i fondi sì. I fondi sì. Ricordiamo poi un film molto bello, Viaggio a Kandahar, che invece mostrava quello che succedeva in quel momento particolare della storia del suo paese, che è appunto la rivoluzione talebana. E c'era anche lì una grossissima richiesta, no, di arti, perché le bombe anti-uomo fanno poi mutilazioni di continuo, giusto? Sì, sono cose spaventose. Adesso è diminuito, per fortuna, un po' perché grazie anche ai militari italiani e anche agli afghani certamente, stanno sminando i campi agricoli, perché le mine erano messe non contro i partigiani, perché i partigiani stavano nelle montagne, e le mine erano messe nei campi affinché i contadini non potessero lavorare i loro campi e perciò sostenere loro stessi e la guerra partigiana. Come se ne esce da questa situazione in Afghanistan? Bisogna tagliare i fondi, bisogna bruciare i campi d'oppio affinché i talebani non abbiano più soldi per comprare le armi? Come se ne esce, principessa? Lei ha una sua idea? Io ho un'idea che i campi di oppio non vogliono, neanche gli occidentali non vogliono bombardarli, perché mi domando come mai per trovare Bin Laden, che adesso non è più di moda, gli americani hanno bombardato con le bombe uranio arricchito le montagne dell'Afghanistan, producendo malanni che tuttora ci sono, come per esempio bambini storpi che nascono, la nube che porta malattie in tutto il paese e probabilmente anche tutto il mondo, queste nubi tossiche, le bestie che nascono tutte storpie, e molta leucemia nei bambini, nei giovani, malattie della tiroide che prima in Afghanistan non ce n'era a questo punto. E come mai si è bombardato a tappeto tutte queste montagne e non si bombarda di notte, perché di giorno ci potrebbero essere i contadini, ma di notte no, perché non si bombardano i campi di oppio? Che nessuno, sono ben visibili. E nessuno se lo domanda, nessuno si fa questa domanda, ma la risposta è ovvia. Angelica Calò Livnè, quale speranza per Israele, quale speranza per la Palestina di pace dopo il tuo spettacolo? Guarda, poco tempo fa ho partecipato a un bellissimo evento che aveva organizzato Shimon Peres, che si chiama Tomorrow, proprio a Gerusalemme, dove hanno portato dei progetti super moderni dal punto di vista sia economico che scientifico della medicina, e uno dei progetti più belli che ho sentito era di Yitzhak Teshuba, uno degli uomini più ricchi di Israele, che insieme ad altri uomini, altre persone, imprenditori, vogliono, e probabilmente avverrà nel giro di 2 anni, vogliono creare il canale dei due mari, un canale che uscirà dal Mar Morto, arriverà fino al Mar Rosso e trasformerà tutto il Negev fino a giù nella penisola del Sinai in una striscia verde. Ora, qual è la cosa bella? Che queste persone hanno detto: noi non potremo mai essere tranquilli finché i nostri vicini non saranno tranquilli. Allora, questo canale, che sarà tra Israele e la zona palestinese, darà lavoro a 1 milione di persone, che saranno più di 300.000 ebrei, più di 300.000 palestinesi e più di 300.000 giordani. Questo è quello che io penso sia la cosa più meravigliosa che succede, che c'è gente che ancora vuole, combatte e dà tutta se stessa per far sì che tutti i muri, tutte le barriere crollino, affinché tutti abbiano un lavoro, affinché, e non si pensa solamente agli israeliani, ma si pensa anche all'altra parte, capisci? Se noi riuscissimo in questo modo a tenderci le mani e a fare qualcosa insieme, allora questo trasformerebbe il Medio Oriente in uno dei posti più meravigliosi del mondo. Questa è la mia preghiera, la mia speranza, la mia benedizione. C'è stato anche un allentamento, no, della tensione in questi ultimi... Come? C'è stato anche un allentamento della tensione in quest'ultimo tempo? Purtroppo non tanto, purtroppo è successa una cosa molto triste, che proprio il giorno di Kippur ci sono stati dei tafferrugli a Akko, che è una delle città arabe ed ebraiche dove c'è proprio la convivenza per antonomasia. Purtroppo ci sono stati degli arabi che sono entrati proprio il giorno di Kippur, hanno disturbato con la musica a voce alta. Però, allora, insomma, ecco, non ci sono state né guerre, ricordiamo la guerra di Kippur, né in questo momento, però chiaramente la prudenza è d'obbligo. Giuliana Sgrena, autrice, ricordiamo, anche di Fuoco Amico, edizioni Feltrinelli e Il Prezzo del Velo, quale speranza per l'Iraq, tu che ci sei stata, e quale speranza anche per l'Afghanistan? Io purtroppo sono molto pessimista, naturalmente mi auguro che il sogno di Angelica si realizzi, perché finora si stanno solo costruendo muri e non si stanno distruggendo, però io penso che tutta la soluzione del conflitto in Medio Oriente si possa risolvere se si risolve il conflitto israelo-palestinese. Però la situazione che vedo peggiore in questo momento è quella afghana, perché non si vede nessuna via di uscita, e se la via di uscita deve essere un ritorno indietro, cioè a cercare di nuovo un accordo con i Taliban, perché i Taliban sono molto forti oggi nonostante gli anni di interventi militari stranieri, questo vuol dire che si è subito una grossa sconfitta, non solo sul piano militare, perché io non penso che queste guerre alla fine si riescano a vincere sul piano militare, ma anche sul piano ideologico, perché vuol dire che la Taliban colonizzazione in qualche modo ha vinto e avrà degli effetti devastanti anche su altri paesi e della soprattutto zona. Soprattutto sulle donne, poi, delle donne. Soprattutto nei confronti delle donne, perché ricordiamo lì non c'è proprio c'è una discriminazione netta. Io ringrazio le nostre tre ospiti, Angelica Calò-Livnè, Giuliana Sgrena, la principessa India d'Afghanistan. La quota rosa. Benvenuti a questa seconda parte dove ci dedichiamo alle nonne, queste preziosissime alleate delle mamme che lavorano e queste preziosissime alleate anche perché poi non solo sono di sostegno materiale ma anche di sostegno psicologico. Allora, per parlare delle nonne che sono sempre più importanti nella vita di una donna che lavora, ma non solo, abbiamo con noi Teresita Rampi, presidente dell'Associazione dei nonni e delle nonne Argento Vivo di Berenguardo in provincia di Pavia. Buongiorno. Buongiorno. Maria Grazia Cerani, autrice del libro Chiamatemi pure nonna, che organizza anche un consultorio di Varese, incontri con anziani. Buongiorno. Buongiorno. Diletta D'Amelio, che ha curato per l'edizione Red Nonne d'oggi, preziose vicemamme fresche di parrucchiera. Buongiorno. Buongiorno. Diodil Lamurer, e che insomma ci piace molto questo fresche di parrucchiera. Allora, noi arriviamo subito a Teresita Rampi, le facciamo qualche domanda personale. Primo, quanti anni ha? Lo possiamo dire? Certo, 63. Quanti nipoti ha? Uno di 13 anni. Però adesso sta quasi per arrivare a casa, veramente. Lei è una nonna giovanissima, si è sposata giovane, sua figlia sono la mamma del papà. Suo figlio si è sposato giovane. Ha avuto il figlio a 29 anni, io ho avuto il figlio a 22 anni. Quindi non è vero che sono solo le donne che fanno appoggio alla propria madre, ma anche gli uomini, come lei ci insegna, suo figlio che si appoggia un po' anche a lei per questo nipote. Certamente, certo. Non si fanno differenze comunque, né fra la nuora né tra il figlio. Io non faccio differenze, accudisco mio nipote pur non essendo mia figlia la persona che ha più bisogno, perché per me va bene accudire mio nipote, io lo faccio per mio nipote soprattutto. Quanti figli ha lei? Ho due figli maschi, non ha figli. Ah, okay. Allora, che cosa vuol dire a un certo punto diventare nonna? Guardi, io le dico subito che diventare nonna significa la responsabilità di essere angeli custodi, dato che c'è stato 4 anni fa, è stato istituito dalla Regione Lombardia questa festa, questo riconoscimento nei riguardi dei nonni, e mi pare un paio d'anni fa riconosciuto anche a livello nazionale. Noi abbiamo deciso 4 anni fa di fare questa associazione con questa, diciamo, motivazione. Ci sentiamo angeli custodi dei nostri nipoti, in quanto i nostri figli, disponendo di poco tempo, si basano molto sulla nostra esperienza, e fin quando noi ce la facciamo, perché io sono una delle nonne semi giovani, ci sono anche nonne più anziane che comunque accudiscono ancora dei nipoti. E comunque in questa associazione noi facciamo sempre i nonni, però ci piace, appunto, abbiamo creato questa associazione, ci piace sì essere considerati angeli custodi, ma non vogliamo perdere la nostra personalità e la nostra creatività e individualità. Per cui, ritrovandoci, noi siamo creative, noi organizziamo eventi quasi storici con medici, con professori, noi facciamo delle grandi feste alle quali partecipiamo noi personalmente, noi facciamo delle gite sempre in collaborazione con i nostri nipoti piccoli e grandi e anche con tanti giovani. Quindi noi trasmettiamo ai giovani le nostre esperienze e i giovani danno a noi una linfa, perché siamo in 170. Senta, ma lei condivide, in un film c'era questa barzelletta che i nipoti sono praticamente il dono di Dio per non aver strozzato i propri figli, diciamo, cioè che la nonna ha un atteggiamento nei confronti del nipote completamente diverso, molto permissivo, mentre magari con il figlio o la figlia è stata molto dura. Direi che in parte è anche vero, ma oggi come oggi io sono molto diversa da quella che era mia mamma, che mi è mancata 2 anni fa, a 85 anni. La mia mamma era molto permissiva nei riguardi dei miei figli, io sono una nonna, tra virgolette, un po' più moderna. Siccome mi assumo anche certe responsabilità, e come me tante altre che conosco, perché appunto ci si frequenta, e siamo discretamente severe nei riguardi di questi ragazzi. Certo che ci sentiamo molto più libere, perché la responsabilità dell'educazione è sempre comunque dei genitori, ma penso che diamo una grande mano nell'educazione dei nostri nipoti ai figli, perché mia nuora si basa molto su quello che, e non sono un caso unico, sia ben chiaro, si basa molto su quello che io dico a mio nipote, perché probabilmente anche questi figli hanno comunque bisogno, hanno 40 anni, 38 anni, hanno comunque, non si nasce genitori e non si nasce nonni, si impara, certo, a fare i genitori sbagliando, perché io ne ho fatti tanti di errori, però comunque l'esperienza poi insegna e di conseguenza noi abbiamo un po' di esperienza sulle spalle, ecco quello che ci salva. Certo, allora sentiamo invece Maria Grazia Ceriani, autrice, chiamatemi pure nonna, dice: in una società in cui imperversa il giovanilismo sembra quasi che invecchiare sia un periodo da scongiurare. E sì, allora è una ricerca abbastanza dura. Sì, certo, io il libro che ho fatto scaturisce dalla tesi che ho fatto per lo studio di consulente familiare. E ho inserito poi in questo libro l'argomento di diventare nonna, perché mi ha dato lo spunto per ritenere che in questo momento attuale la nonna si trova un po' in mezzo a due fuochi. Da una parte la nonna, con l'allungamento della vita, i nonni sono rimasti giovani, efficienti, ancora inserita nel sociale, con la voglia, giustamente, come diceva la signora che mi precedeva, di non perdere la propria individualità, eccetera. Dall'altra parte la società non ha ancora riconosciuto al nonno, io insisto a dire, il ruolo psicopedagogico, che non è solo quello di pura assistenza, come alcuni giovani purtroppo credono di poter dire, cioè affidare la nonna al bambino nella per le vacanze, fare i regali, curare che non si facciano male, eccetera. Allora io avevo approfondito durante questi corsi che tengo presso il consultorio, ho chiesto ai nonni quali erano i loro problemi principali nella relazione, sia non solo con le nuore e i generi, ma soprattutto anche con i figli e le figlie diventate i genitori. E così ho scritto poi dei trattati, diciamo, che sono, non sono su questo libro, ma fanno parte della mia biblioteca personale, dove un po' ho fatto emergere quali sono le affinità dell'educazione tra il genitore e il figlio, e tra il nonno e il nipote, le differenze e le affinità, che poi vogliamo, se vogliamo dirle subito, possiamo dirle in seguito. Certo, no, no, ecco. Quali sarebbero? Dunque, da come è emerso così dai miei studi e dalle esperienze ricavate dai nonni presenti ai corsi, sono sempre state queste. La differenza tra educazione tra i genitori e i nonni qual è? Il genitore insegnano, no, sono preposti a guidare, insegnano, sono la protezione e le norme. E lo dice stessa la Costituzione, è dovere dito genitore allevare, educare, istruire i figli. I genitori sono in questo caso, allora, giustamente più attenti a ciò che fa il bambino, come si comporta. I nonni, al contrario, rappresentano l'indulgenza, proprio il discorso che facevate prima con la signora. Diceva l'indulgenza, che non vuol dire farsi mettere i piedi sopra la testa, ma cosa vuol dire? Aiutare il bambino a riconoscere i propri errori e, attraverso gli errori, evolversi nel meglio. Cioè, la saggezza dei nonni qual è? Sanno delle esperienze fatte che la vita presenta, fa fare degli errori, e che attraverso l'errore però ci si modifica e si migliora. Per questo, per i nonni, ecco una prima differenza come emersa, che i nonni accettano più il bambino reale anziché il genitore che ha in mente un po' un bambino ideale. Una seconda differenza molto importante è quella, appunto, che tante volte i genitori dimenticano il bambino reale a favore di un bambino ideale che deve compensare le loro aspirazioni deluse. Ecco la sindrome di Bellissima, diciamo. No, la sindrome guardi, di Bellissima, il film guardi di Visconti che, guardi con Anna che una Magnani. Cosa, una cosa veramente che emerge proprio a livello abbastanza importante, perché poi lo si vede al di là dei corsi, lo si vede guardando in giro per la strada, al mare, eccetera, tutti questi bambini già a 2 anni con sulla tutina dello sport, il calcio, la roba, devono vincere, devono soddisfare tutte queste aspirazioni magari perdute dai genitori. Quindi la sindrome di Bellissima. Invece il terzo? Il terzo genitore, poi il genitore in genere adultizza, un'altra cosa che è emersa, adultizza il figlio maggiore affidandogli delle responsabilità che magari non gli competono, come quella per esempio di proteggere i fratellini. Io poi come consulente familiare che faccio i colloqui individuali agli adulti, emerge quasi sempre nel figlio maggiore purtroppo questa tara, io la chiamo, che non li rende liberi di espandersi bene nella loro personalità. E dunque, poi cosa fanno? Soffocano, adultizzando il maggiore, soffocano la fisiologica reazione di gelosia che devi avere nel fratello minore. E quindi la sindrome di Caino, direi. Sindrome di Caino. La sindrome di Caino, che ricordiamo era il maggiore rispetto a Abele. La quota rosa. E torniamo a parlare di questo universo, sempre più importante ai giorni nostri, l'universo delle nonne. Diletta D'Amelio ha curato per le edizioni Red la pubblicazione del volume Nonne d'Oggi, preziose vicemamme fresche di parrucchiere. Insomma, si può fare la vicemamma, però si deve anche andare dal parrucchiere, magari a giocare a bridge, andare al golf, no? Esatto, è proprio questo il messaggio che il libro che abbiamo deciso di pubblicare anche in Italia trasmette. L'autrice di questo libro è una psicoterapeuta francese, ma è soprattutto una nonna moderna, come quelle che descrive nel suo libro. Ed è un libro che a noi è piaciuto molto perché con molta ironia riesce a fotografare bene la condizione delle nonne di oggi, partendo da un fondamentale dato anagrafico, cioè le nonne di oggi appartengono a una generazione molto speciale. Sono le ragazze degli anni 60, della fine degli anni 60, sono donne che spesso sono state figlie dei fiori, sono state femministe militanti e che tutte, alcune più direttamente, altre magari più indirettamente, però hanno perlomeno respirato l'atmosfera del 68 e tutte le battaglie che ha portato con sé. L'autrice appunto dipinge le nonne di oggi come le pioniere dell'emancipazione femminile, come delle specie di eroine che hanno trasformato la società occidentale e che hanno fatto veramente tanto per conquistare la parità dei diritti tra l'uomo e la donna. E adesso però fanno le babysitter alle proprie figlie o ai propri figli, insomma, ecco, comunque danno una mano. Sì, certo, danno una mano, però le nonne di oggi sentono che il loro ruolo non si esaurisce esclusivamente nel fare le babysitter a tempo pieno. Il loro originale percorso di vita le porta a trasmettere un'immagine un po' diversa rispetto a quelle delle nonnine della loro infanzia, che erano magari massaie perfette, dedite a sferruzzare, a preparare marmellate e ad accudire i nipoti. Certo, le nonne di oggi continuano a farlo, però sentono che il loro ruolo non si esaurisce esclusivamente in questo e rivendicano il diritto quindi anche a continuare a coltivare i propri interessi e le proprie passioni. E la tipologia delle nonne del terzo millennio è presa in esame dall'autrice con molto senso dello humor e arriva a identificare almeno una ventina di nonne diverse. Dobbiamo infatti sentire ancora Silvia Veggetti Finzi, docente di psicologia dinamica all'Università di Pavia, che ha pubblicato da poco Nuovi nonni per nuovi nipoti. Come sono questi nuovi nonni e come sono questi nuovi nipoti? Pestiferi, mi sembra, questi nuovi nipoti. Ma se permette, io integrerei il discorso che è stato fatto finora, che è certamente in pieno, con la figura dei nonni, quindi degli uomini che sono diventati nonni, che appartengono anche loro, almeno i nuovi, alla generazione che ha fatto il 68, ma poi anche quelli molto vecchi hanno saputo rinnovarsi. E la cosa più interessante di questi nonni è che fanno con grande piacere i nonni dei loro nipotini. Magari sono stati dei padri un po' distratti, tutti presi dal lavoro, dalla politica, dalle ideologie degli anni 60, ma una volta diventati nonni hanno scoperto una parte femminile e materna. Io li osservo mentre vado a ritirare all'asilo i miei nipotini e vedo che allacciano il cappotto, soffiano il naso, mettono le scarpe, danno la merenda, accompagnano i bambini all'asilo. Che non si sarebbero mai sognati di fare con i propri figli. Mai, non si sarebbero mai sognati e sono felici di aver scoperto questa parte tenera, fragile di sé, e tanto che ho messo come sottotitolo al libro La gioia di un incontro, perché sono stati proprio i nonni a suggerirmelo, dicendomi è più che un piacere, è una vera e propria gioia. Allora, l'ultima battuta a Teresita Rampi, presidente dell'Associazione dei Nonni e delle Nonne Argento Vivo di Berenguardo in provincia di Pavia. Si riconosce in queste figure? Insomma, va dal parrucchiere e poi cura suo nipote? Io no, non mettiamo questi paletti. Io vivo una vita, giusto, mi vedo molto nelle parole che ha detto l'ultima signora di Pavia, la scrittrice, e anche la penultima. Siamo esattamente degli anni 60, siamo cresciuti in quell'epoca. Questi ragazzi del giorno d'oggi, questi giovani, giovanissimi, amano moltissimo sentir raccontare da noi i nostri sempreverdi anni 60, e noi infatti raccontiamo loro e li coinvolgiamo almeno due o tre volte all'anno in queste nostre esperienze li portiamo a fare le gite assieme a noi, culturali, eccetera. Per noi è molto è utile, è necessario anche per il nostro vivere essere a contatto con i nostri nipoti, come siamo noi importanti nei loro riguardi. Perfetto. Quindi... Per cui a un certo punto non c'è una regola fissa, siamo intransigenti quando lo dobbiamo essere. Certo che quando mio nipote mi dice ciao nonnina, come stai? Lei si squaglia, io lo so. Io mi squaglio, ma non è che gli offro più di tanto, ma il bene è immenso. E diciamo anche volentieri qualche no. Siamo molto diversi da quelli, dai nonni di una volta. Lei ci dà una speranza, insomma, non è vero che li viziate. Diretta da me, io l'avevo interrotta prima, però invece glielo chiedo, quindi queste nonne d'oggi, preziose vicemamme fresche dei parrucchieri, quali sono le tipologie? Le tipologie sono tantissime. La nonna tradizionale non è del tutto estinta, ma si è evoluta. Adesso indossa i jeans, va in palestra, però tutto sommato è quella nonna che ha optato per i valori ritenuti validi da sua nonna. Abbiamo poi le nonne sempre in movimento, le nonne vulcaniche, le nonne hippie, le nonne appiccicose, quelle che si annoiano a morte senza i loro cari nipotini. Le nonne super impegnate, le nonne rompiscatole, le nonne che fanno fare brutte figure ai loro nipoti, che si vestono con vestiti di dubbio gusto, con cappelli improbabili, le nonne artiste, le nonne campionesse di ballo, le nonne patite della tecnologia. Ecco, da questo punto di vista le nonne sono estreme, o sono completamente digiune di tecnologia o sono veramente espertissime. Poi abbiamo le nonne innamorate, le nonne che si innamorano a 65-70 anni. Insomma, ce ne sono tante. Allora, una battuta a Silvia Vigetti Finzi e una battuta a Maria Grazia Ceriani. Allora, Silvia Vigetti Finzi, sono così variegate le nonne oggi in Italia? Questo universo così differente? Sicuramente, perché infranti gli stampi della tradizione, come è stato detto già in precedenza, non esiste la tipo nonna di una volta, quando veramente era una fotografia che andava bene per tutte. Adesso ognuna è nonna o nonno, ripeto, a modo suo. Quindi si apre uno spazio di creatività, uno spazio di innovazione, in cui ci sono di grande aiuto i nipoti, perché loro stessi ci dicono che cosa si attendono da noi. Nel libro che ho scritto, attraverso un centinaio di testimonianze di nonni e nonne italiani, ripeto, quindi più prossimi a noi, e risulta lo stesso che risulta in Francia, cioè che non esiste più uno stereotipo unico, ma un grande ambito di creatività, e da questa creatività, proprio dall'essere nonni a modo proprio, che nasce quel piacere di cui parlavo, o meglio ancora, come dicono gli intervistati, quella grandissima gioia che nasce dalla nonnità, una nuova fase della vita che non ci permette di invecchiare, perché accanto a un bambino che cresce non c'è posto per la vecchiaia. Maria Grazia Ceriani concorda? Sì, tutti i nonni con la PlayStation? D'accordissimo, tra l'altro uno degli errori appunto che non devono fare i nonni, tra i vari che abbiamo, sono emersi appunto durante sempre queste conferenze con i nonni, sono proprio quello di un eccessivo conservatorismo e conseguente rifiuto di aprirsi il nuovo, mentre gli errori veramente importanti da non fare sono l'ingerenza, sembrano cose ovvie da dire, ma è meglio, ripeterle, l'ingerenza nelle scelte educative dei genitori, anche se ciò non vuol dire sentirsi impediti di esporre la propria opinione. Poi svalorizzazione del ruolo del genitore, a maggior ragione quello della nuora o del genero, un'eccessiva possessività nei confronti del bambino, soprattutto il nipote, il primo nipote, perché non sembra, ma alcuni genitori sono gelosi. Poi la trascuratezza, un'altra cosa che sembra una sciocchezza, invece è emersa anche questa in modo abbastanza eclatante, la trascuratezza nei confronti del partner, cioè il nonno viene trascurato quando la nonna dedica eccessiva attenzione al nipote, a tal punto quasi da sostituirsi, da diventare una seconda mamma. Insomma, ecco. Come avviene subito dopo il parto per le mamme che trascurano i propri mariti alle volte, no? In quel momento in cui il bambino è neonato e ha bisogno di moltissime cure. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quotarosa@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito. Noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi ritorniamo con Diletta D'Amelio e Silvia Veggetti Finzi. Vi do appuntamento alla seconda parte, dove affronteremo un tema un po' più leggero, quello delle nonne. Noi ci ritroviamo con la principessa d'India d'Afghanistan subito dopo la pausa e ci racconterà dei bambini che ospita e cura nella sua casa di Roma.